Vedi un po' com'è? È un cosa stai uscendo. Cosa? Con che cosa stai uscendo? Sto uscendo col Midland, con quel microfono che hai visto tu. A me va bene, benissimo, non bene, benissimo. In effetti cosa ho fatto? Ho dissaldato il negativo che era attaccato con la piastrina, ho isolato la capsula con un pezzo di quella gomma piuma e basta, non ho fatto altro. Oh, una bomba girava, so come cambia togliendo quella piastra, facci picchia uno. Hai visto? Quindi influisce, ha migliorato? Alla grande, mettila a 10. Ok, aspetta che sto entrando dentro quello là, cazzo. Sto entrando maledettamente su quello là. Cambia canale quando entri, non fa niente, cambia canale, non fa niente. Ok, dai. Va bene, quindi ha migliorato ancora, dai. Non ho migliorato, adesso sì. Ottimo con la truppa. Ascolta, è la capsula l'hai messa davanti, immersa nella gomma piuma. Positivo, positivo. Gli ho fatto proprio un forellino da entrare la capsula, proprio bella pressata. Rimane bella aderente, isolato da quella piastrina, e poi sopra ci ho messo l'altra. Perfetto, con la retina, ottimo, veramente ottimo. Vanno bene quei microfoni, fatto quell'accorgimento lì a posto. Beh, noi l'abbiamo fatta che era impressa, se no si poteva dissaldare e togliere, ma l'hai fatto tu, va bene lo stesso. Ok, no, diciamo che va bene, dai. Allora aspetta un attimino, vedi un po' questo passaggio. Ok, da questo passaggio cos'è cambiato? Vai da 9 e qualcosa, 9 più 25. Come 9? Adesso quanto sono? Adesso sei 9,5. Ok, e adesso? 9 più 25. Ok, però su quello là è tutta un'altra pasta, dai, ho capito. Ma guarda, quello là va bene perché la radio è leggermente diversa, però questo sta spingendo bene. Ecco, per essere un baracchino con un MB più 4, un aiutino è più che sufficiente. Stai andando benissimo. Che sei locale, mi Sandro? Cioè, non arriva nessuno così mi da molto basso. Cazzo, c'è 9,25, tu non ci capisci. Ho capito, va bene, dai. Ok, vabbè, qualche piccolo accorgimento ancora e poi vediamo un po' di migliorare. Innanzitutto lì più avanti l'antenna da lì la devo spostare perché c'ho quella linea elettrica che devo cercare di portarla almeno i radiali quelli piccoli almeno leggermente più su dalla linea elettrica. Quello noi lo rifacciamo. Il palo si tira più su, ti ho detto, è l'antenna, quella del ricevitore. Si mette con la staffa a palo sotto i radiali e si fa passare in mezzo ai radiali. Non mi fa assolutamente niente, ce l'avevo io per anni, sempre qua carbonati. Non succede proprio niente perché sono due frequenze completamente diverse, quindi non è rientro di RF, non è niente. Ok, no, lo ripeto, non l'ho fatto perché pensavo che influiva in qualcosa, ma se tu l'hai già provato, se mi stai dicendo che non influisce, la metto lì, capito? Perché adesso è su un palo che c'avevo già e dal tetto sarà circa un metro, quindi mettendola su acquisisco ancora. No, ho messo un metro di radiazione su quella, tenendo troppo poco. dal piano, dal piano di massa, proprio per far sì che irradi bene, perché la frequenza è talmente stretta che ha bisogno di spazio, perlomeno quelle frequenze lì sono fatte così, quindi va messa molto in alto. Se vuoi che ti renda diversamente ti devi accontentare, però so che tu ti accontenti poco, quindi bisogna cambiare, bisogna metterla più su. Va bene, ok. Metterle un trasformatore a corrente continua in uscita, a 12 voci, quindi ingresso 2:20, uscita 12, ma è un lavoraccio, cazzo, un lavoraccio. Ti puoi vedere con 60 euro comprati un altro switching a... qua, per il baracchino, per lui ce devi fare, sì, sì, sempre metti un pacciuglio perché c'hai l'aiuto, c'hai l'aiutino. Sì, sì, no, uno come questo lo prendo, dai, con 60 euro, senza, tanto è più che sufficiente per quello che devo usare, è più che sufficiente, cazzo, no. Volevo prendere uno a 50 ampere, ma cosa te ne fai? Non fai niente. No. Beh, per la radio grande puoi anche aumentare l'amperaggio, non c'è problema. Ti sai che è a posto, puoi lavorare bene anche in banda laterale, in FM e tutto. Per lui lasciarlo lì, puoi prenderne uno da 40. L'ha preso Mauro, ha tratto una stronzata su internet alla comunicazione. Sempre switching, eh? Io switching non ci vado d'accordo. Li avrei, ma ne avevo tre della Nisse, bellissimi alimentatori, però non mi soddisfano, non mi soddisfano. Li usavo anche nel radio, in banda laterale. Il bello è quello che c'ha Gianluca. 20, non ha problemi, ci ha trasformato il suo interno. Una cannonata uscivo nel radio. Cazzo fanno questi HF tutti a 12 voci, ma va a far culo. Quello è il casino, cazzo, boh, ci sono delle piccole cose, cazzo, e perdono un bicchiere d'acqua, cazzo, apparati del genere, cazzo, non metti che devi aggiungersi un alimentatore esterno, ma mettiti un alimentatore e fagli andare a 220, cazzo, invece no, boh, vabbè. Cosa vuoi fa? Telefone, ma... Bene, va bene. Luca, cosa stai combinando? A me stai dicendo sa. Sì, ho detto cosa stai combinando? Ma noi che ti abbiamo dato la motosega sei cominciato a far legna e sotterrazzo, no? No, mi, come ho detto anche a Claudio, stava attaccando questo alimentatorino di rotto a questo caricabatterie del trapano dell'abitatore. E la poi ha già attaccato la televisione, non era mai dei 10 comandamenti, tanto non me ne taccio. E poi mi piace il burro mentre filmi, eh. Ma mi togli la curiosità, perché ti sento basso e poco fa ti sentivo meglio? Ah, clicca, poi la sciuffa. È un passato poco, Sandro, aspetta, eh? Ecco, dai, di questa di più, magari do fastidio. No, fa bene così, solo così, dai. Trighe contro trighe. Tu ti sei fatto il doppio di rimuovo? Non lo so. Non lo so, ma adesso un po'. Che fa vedere? Ma così è poco la terra in terra può chiusando? No, diciamo. Sandro, ma la paga qui tu, sì. Un attimo che sto accordando. Vabbè, da non tagliare troppo, mi dice, no, non ti ne rimane in mano. No, stavo girando i canali là, su 27.635, c'è qualcuno, ho capito chi è, tu? Ehi, quello che parla in sardo, eh? Coso? Boh, ok, Gio Maria, no? No, oh, Coso è Giovanni, quello di Inti. E infatti sono in FM. E stanno sempre lì, c'hanno un canale loro come noi. E stanno lì, capito? Però per sconfinare lì preferisco parlare qua, almeno c'è più silenzio. No, Alessandro. No, dicevo, dove sono queste qua? 27.635 è già lui. Ah, ecco. Ti ha detto Luca, ti lo vai un po', che rassi. Luca chissà. Ma Silvestro non si intende, magari fende l'ascoltone. Alla piazza attiva Silvestro. Ma ti passa pure la mano. Silvestro, guarda che facendo l'ascoltone, ti crescono le orecchie. Te ne mangi, Silvestro? non gli ascoltò, non gli diceva bisogna, sarei stato sempre ascoltando. E cosa non mi che fatto? Attirante la ritrattata. Ma perché fatto lo di polo? Allora, a proposito di polo, provato l'hai collettato io. Che cazzo? E non me lo pongo, in camera me lo pongo. Oh. A proposito di polo, a proposito di polo. La, se non ricordo male, la discesa cos'era? A 45 gradi? Ma quello lo puoi mettere anche in orizzontale. Ma da un palo al palo, da un palo al palo, perché tu puoi mettere anche i fucili o a portosi come vuoi. Anche in orizzontale può andare. Anche in orizzontale, perché è talmente corto, farlo a buio vertita non conviene. Mettilo in orizzontale, steso, come il filo da stendere. Cazzo, lo metto filo da stendere, devo metterlo altro palo. Dunque, dal palo della Mantova, Andy. Ah, l'albero della mentola. No, mi, non ti uscì. Io vivo a Sassari, ti porto in giro il giornalino che si occupa i parenti. E ti dice sempre, compà, so che in campagna faccio l'albero della mentola, tutto pieno. L'hai detto, infatti, che volta che passo via mentola è tutto pieno. In via mentola. No, a parte gli scherzi adesso, però lo devo orientare, cazzo. Lo devo mettere verso Sassari. Ma lo metti ma sì verso Sassari, dillo a zio Claudio, io. Scusa, in che senso lo metto? Innanzitutto lì adesso non ho capito. Tu lì non l'hai segnato, qual è il polo caldo e polo freddo? Cazzo, hai ragione. Ecco perché ti ho detto di metterlo verticale. Quindi lo stendi, vabbè, puoi farlo anche girato leggermente a 45 gradi, là. Puoi mettere la mantova all'antenna del televisore. Aspetta, un filo solo c'è bianco attaccato in testata. Cos'ha? Un pezzo di nylon bianco, di tirante. Nella testata del dipolo, da una parte solo c'è. Ma dura che mi chiede? Ah, me ne fate pesato, ragazzi. E cosa vai, tua morrugne? Era. Le due c'erano già lui. Ma metto lì sì, che si mette di quel conito. E che si pizziraccio. Che mi pare l'avevo segnato, una parte solo quello caldo, cazzo. Certo non l'ho messo più e meno. Non me la metto. Comunque io come lo mettevo, funzionava. Forse perché era in alto, non lo so. Già, hai fatto un errore. Va bene, devo aprire quella scatoletta e vedere qual è il polo caldo che hai risaldato lì al jack. Perché almeno lì non ce n'è. Beh, fai. Avrei fatto la vita di quello. Togli un altro isolante e poi glielo metti. Se no lo metti funzionalizzante che inviglia. Apri e te lo scegli, nella scatoletta stessa le fai un più da una parte e dall'altra parte le fai il meno. E così te lo orienti, polo caldo verso Sassari. No, col tester non ci riuscirebbe? Anche col tester lo puoi fare, anche col tester. Sì, volendo sì, anche col tester, volendo sì, ok. Ah, vabbè, li metto sul cavetto polo caldo, li metto un pezzo di nastro rosso e so che quello lì è polo caldo, quindi lo devo mettere in coso. Perché? Perché allora, ogni braccio cos'è? 2350? 2,75, già accordato. Ah. 2,75, ci sto, perfetto, va benissimo. Allora, di questo ne creo un dipolo rotativo. Aspetta, non truccatemi la mano dell'Ugudu per la cappella. Sa? Ma la cappella di troppo Ugudu. No, forse non mi hai capito. Allora, io ho un rotore d'antenna. C'ho, come si chiama, quelle tipo canne da pesca in fibra di vetro lì, mi sembra che sia, o che cosa, che sono 3 metri l'una, 3 metri, ne ho due pezzi, Sì, sì, rotativo, corruttore. Ah, lo metti sopra canna pesca, fai un master di quelli piccolini e lo fai là. Bravo, cazzo, non c'è ci prova bene. Sta attento all'angolo della mandola, però. Bravo, esatto. Volevo lì, ti volevo, bella e buona mandola. Allora, su due cose. O li faccio la buona mandola, però non mi conviene, anche se no mi tocca a mangiare la mandola, mi tocca a fare via mandola. Insomma, ti vemmo. Ti vuole di nuda, papà tu, lo fai a legna, che c'hai, bro? E vai a cattarti in chivi. No, no, no, allora, questo io l'avevo già sperimentato anni addietro. L'avevo fatto dove? A Porto Torres. L'avevo fatto a Porto Torres quando ero là nel cantiere. E su soffitta ci devo avere ancora queste tipo canne da pesca, perché l'avevo fatto in rotativo, cazzo di polo. Aveva fatto una notte, che dai, ragazzi, me l'ha pintata, che dai, tanto tempo venire. Sì, devo provare. A te già lui. Lo c'è di fare attivo. Chi ha il motorino del cristalli di una macchina? Oh, una volta mi ha detto, fai un motore no, per l'antenna. Con un motore lavatrice. L'ha già fatto. L'attacco di allumi, ci ho dimenticato di mettere le fine coscia. Altro che centrifuga ha fatto, tutta grigiolata c'è l'antenna. Ma è forte quello motore di lavatrice. Ci dovrebbe un riduttore di potenza, no? Com'è? Dovrebbe girare piano? Inizialmente gira piano quando sta lavando. Tanto ma poi fa tutto a centrifugarci, grigiolata tutta l'antenna, cazzo la gioca l'andriga. Cesso. Io per carità, è possibile che... Comunque tu lo fai a ridere, no? Vabbè, adesso vedi questi giorni, vedi che cosa ne ricavo fuori io, lascia. Tanto il commutatore di antenna ce l'ho 4, quello lì, quindi va benissimo. Benissimo, allora vedi cosa annisci. Col depolo dietro, dentro casa. Mi piace quando mi entri così. Qui stiamo andando giù in treno, vai a Braiana. No, non ti preoccupare. No, scusa, col depolo puntato verso di te dovrei, cazzo, arrivarti quanto? Vedi tu, sei già a livello locale così. 17, 19 e 30, non ti basta. Ancora vuoi arrivi. Appena arrivi a Tessassa. Comunque è un buon sistema, anni molto addietro, ti parlo degli anni 90, cioè anche prima 85, l'avevamo fatto a casa di Bartolomeo XGL, aveva una direttiva per la 27, se vi ricordavate, ho fatto da un motore lavatrice con il motoriduttore però, e il fine corsa, e avevamo usato una di quei avanti indietro del sistema della gru, capito? Anziché il coso all'interno a casa, come cazzo si chiama? Vabbè, devo dire presso, non me la metto più. Il control box era a casa, avevamo fatto uno di quella fai della gru avanti e indietro, fine corsa, lui sapeva che quando girava a sinistra il fine corsa poi si fermava a nord, quando girava a destra si fermava a nord-est, guarda. C'era due posizioni, cazzo era una bomba, ce l'aveva su Sassari e a nord verso la Sinara. Ed era una cannonata, fatto proprio uscita a covarato e funzionava benissimo. Sì, già lo so che funziona benissimo, perché in effetti il segnale te lo sbatte direttamente tutto su una direzione, capito? Su tutta una direzione. Va bene, adesso devo controllare un attimino sempre se questo rotore funziona ancora, cazzo della Gelampada in soffitta, e uno quello della ZG, mi ricordo l'avevo preso dalla ZG, avevo pagato una barca di soldi, cazzo, non so se funziona, perché se no per metterla a burro rovesciata, non lo so, devo vedere un po', perché se lo metto attaccato al palo della Mantova, dal tetto, da una parte del tetto lì, non lo so, devo vedere, perché se no metterlo in piano, dal tetto quanto deve rimanere staccato? Staccato. Metti il caso che io lo metta lì tipo filo da stendere, piano, a base del tetto, quanto lo posso mettere? Fa il caso che lo metta 50 cm, un metro. Ma il tetto? No. Ma perché i dipoli, tendo, o rotativi, dipoli a banda intera, in alto sono e lo vanno. Perché essendo direttive devono avere un piano di massa almeno di 4-5 metri. Primo. Ecco, vedi, 4-5 metri, siamo lì, quindi lo devo mettere per forza pur rovesciato a casa. Vabbè, va, adesso vediamo un po', solo che fra poco in che cazzo, mamma, sciamani già, è uscita un attimino a fuori, è stato un po' bloccato, ma di te cos'è sta cosa? E detto, no, è una cosetta così, va, attacchiamo un po' vedessi meglio la televisione, se può che arrivi. Ti imbarchi domani, Civic, ti imbarchi domani, non puoi fare quel sistema lì che sicuramente è un sistema ottimo perché con rotativo ha una resa superiore a uno fisso, anche se a voi invertita, però visto che il polo è piccolo quello, lo fai scendere a 45 gradi, ma tu non glielo puoi fare perché i radiali sono talmente corti, mi viene male a fare la V. Quindi cosa ha fatto? Sì, il polo caldo in alto alla mantova e il polo freddo lo fai scendere un pezzo di tirante, metro o un metro dal piano delle tegole, non c'è problema. Lo accendi isolante, l'isolatore, le attacchi un pezzo di filo come ho fatto io e lo porti dove vuoi. Però dall'isolatore al piano di terra almeno un metro. Tu vedi come lavora con l'antenna. 45 gradi, no? Discesa lì. Un brido mai. Sì, già t'ho capito, però scusa, tu mi hai detto un po' caldo lì al palo della mantova. Scusa, attaccato al palo della mantova, non devo fissare la scatoletta. Cazzo, se fissi la scatoletta lì, fai una V molto larga, cercando di stringere il più possibile, anche lì fai 45 gradi, va bene, io pensavo che però cacciassi il polo caldo in alto, la scatoletta rimane al centro e il polo freddo il negativo a scendere a toccare a terra, sempre metro almeno da terra, 50 centimetri, pensavo lo attaccassi così, penso che lo intendi già lui. Scusa un attimino, allora parliamo un attimino della teoria. Se io lo collego, come stai dicendo tu, il polo caldo lì, leggo quel pezzo di nylon, il polo caldo lì verso il palo dell'antenna attuale, la scatoletta rimane a centro, scende verso il tetto un polo freddo e così sto direzionando il segnale dove? All'aria, non a Sassari. A nord ce l'hai il caldo, perché all'aria? All'aria. Sempre a nord, sempre puntato a nord. È puntato a nord, però sto puntando per dire verso l'aria, capito? Perché allora mi viene in discesa. Non è né una V né niente, viene steso in discesa, polo freddo in discesa, polo caldo in alto, pienamente d'accordo che sia a nord verso Porto Torres e quindi Sassari non se ne parla. Pienamente d'accordo con te, ma sta quasi lavorando verticalmente, gradazione di 45 gradi sul verticale, quindi radia lo stesso, perché mettendolo così a 45 gradi in verticale, cosa succede? Che vedi il polo caldo puntato a nord, ma irradia anche centralmente. Irradia anche centralmente, ok, perfetto. Irradia centralmente. Quindi non irradia sul finale del polo caldo dove c'è quel pezzo di nylon, dove c'è quel tubicino. Nylon? perché a 45 gradi verticale irradia sulle due posizioni, 45 gradi verticali in più e centralmente. Altrimenti le fai una pura rovesciata come hai detto tu, e il problema è risolto. Vabbè dai, vediamo un attimino. No, se va bene il corruttore, se è solo cazzo corruttore, cazzo, è vero poco. No, adesso vediamo un po', dai, io lo metto tipo filo da stendere, la posizione, l'unica suona pure rovesciata, oppure filo da stendere, insomma, vediamo un po', Quante posizioni ci sono, capito? Mettono verticale, ok, un po' caldo, in alto, bene, una canna a pesca, un tubo in PVC, tubo in PVC, cioè 2,75 e 2,75, quanto cazzo vale? Ti fai la somma, ti prendi un tubo di polietilene intero, lì dove di polo, o lo metti dentro e le fai il polo per uscire la scatoletta, va bene? O se no glielo attacchi esternamente, una canna a pesca esternamente, fascetta in alto per il polo, tutti quegli isolatori, tacchi isolatori, senti il polo caldo attaccato al tubo, che sia sempre in polietilene oppure canna a pesca in alto, l'ho tirato bene, il polo freddo fascettato giù bene, e ti lasci la scatoletta libera, gli attacchi il polo, il cavo, e lo metti dritto, ok, sta fatto dritto. Un tubo che non fletta è in polietilene. Tu mi dai la risposta. Altro che antenna, Ho capito, No, io pensavo che lui irradiava sulla punta del polo caldo, capito? Lì dove c'è messo quel tubicino di isolatore. Però se mi stai dicendo che lui irradia anche centralmente, lì dove c'è la scatoletta, insomma, allora è perso. Guarda, io ti posso dire una cosa. Prima di fare tutto sto paravan che hai visto, mi sono traslocato con la scrivania piccola perché le radio erano ancora tutte in via Pasqua. Ho portato una radio solo, mi sono trasportato, e quel dipolulio l'ho messo dentro questa stanza, dentro, qui, appeso all'angolo della finestra, verso la porta, un due chiodini, dentro la stanza. Ho portato verso la finestra, sentivo tutto Sassari, anche camionisti, porto Torres, molto basso, però lo sentivo, dentro casa. Quindi, la crude abbia il polo quando che si sia puntato da qualche parte, c'è problema di radiare, c'è nessun problema. Ho capito. Va bene, adesso vediamo un attimino, devo cercare un attimino una posizione una posizione ideale. Va bene, ok, Yasa. Luca? Fate della roba coni e speriamo che si cambia a pagare del cavame. Io ce l'avevo lo stesso un dipolo, però l'avevo fatto io, non mi ricordo però le misure perché cosa erano. Devo cercare oggi il magazzino. Che ho fatto? Oh Gianlu, ma quella che hai rotativa l'antenna, c'è verticale o una grotta, cos'è? L'antenna è Quella che stiamo parlando qua? Non lo so, no? Qua c'è la 510 come la mia, no? No, non è rotativa. Però qua, sinceramente non me lo ricordo come si chiama, perché me l'avevo data così. È una specie di carica grande nel basamento. Come che sia, e dopo accoppiato c'è lo stilo che si piazza in 3-4 pezzi, se non mi ricordo bene, d'alluminio, senza radiali. Cioè questa specie sembra un barzucca. Ghiscia, ma che frequenza quasi ghiscia? Lei dovrebbe essere, l'antenna 30 dovrebbe essere tutta l'antenna. Oh, è brutta quella, è brutta, E funziona bene, cioè senti in HF tranquillamente. Il cavo col PL che si entra così normale, il cavo della massa per quanto riguarda l'antenna, no? Il PL per attacchi al palo, quello lì. Era attaccata su questa radio qua. Però con questa radio qui pure cos'era? Poteva essere un ricevitore. Non l'ho mai vista l'antenna così. Un po' mai grosso, ma verticale con un altro polo che passa in mezzo, tipo radiale, no? No, boh, mi ha detto cazzo, boh, però voglio domandare a Luca, vedi che frequenza fa quell'antenna, capito? Frequenza fa, perché non prende molto spazio, perlomeno dove sono io qua non va giù nulla, quindi io voglio mettere una verticale per l'HF, minare il volo, non è che sia sordo, però già funziona, ma non è come avere una... Oh, il volo secondo me già funziona meglio la verticale, però sai, verticale non mi dispiacerebbe. L'unica cosa che io dico, so vai da quando vado a depurare. La cosa che ti mi sentendo, vai da... sono i temporali. Che è giallo? Che attirano i fulmini quando sono così alte. Il cazzo viva della mia che è a 40 metri. Mi sto parlando di 37 metri. L'antenna, vi sono altri 3 metri di derrata, siamo io a 40. Tanta più, c'ho 5 per l'antenna Mantova, 7 metri. Di mettere l'antenna più 3 di baro, perché poi io non le metto mai così alti, tanto sono già in alto. E anch'io, d'inverno soprattutto, c'ho lo stacca antenne, comodo tutto a zero. Tu se l'hai visto come sono organizzato, dietro il 440 lì circumutatore, sei via, e c'ho un neutro dove io la notte metto sul neutro e c'ho un condensatore attaccato tipo carico fittizio. Quando scarica, scarica lì e non mi fa danno, cazzo, ma sai la radio che gli anni passati, i danni che subivo con questo cazzo di temporale, alla fine mi gioco rubito le balle, sono andato in fiera, mi pare a Milano o a Bologna, ho trovato questo commutatore col condensatore cariche elettrostatiche e l'ho ricomparato, non mi è più successo niente. Cosa così ci vuole allora? Perché le antenne, come ho detto, tu sono alte, poi sono in alluminio. Quindi attirano molto i fulmini, pure cazzo fa danno, ma questa mi aveva gribato quello della Icon 275, quello grande che c'ho. Trappato completamente. Secondo me l'ha sentito come ha detto, funziona delle mani. Si è bruciato un asio, cazzo era un fiaco di bruciato. Carica di notte, tensione, siccome la 220. Infatti l'ho staccata dalla 220, quella lì ce l'ho sempre a 12. Che a 12 c'ho il coso. Con la corrente, la notte spacco tutto, salvavita sotto la scrivania, c'è tutto da lì, la nuova tensione in lucco, se no è un casino, cazzo che la vai a capa l'Enel. Ma se il cacco tutto grande così, per i correnti di alimentare tutto quanto, faccio una centralizzata, via scollego dai chivi, l'antenne siccome ti non faccio nel tacco, via scollego tutte le antenne della radio. Sì, sì, conviene, conviene, conviene perché l'inverno purtroppo è un casino. Fanno l'ingresso a qualche parte, la corrente leggermente emozione, di alta presa, parti, entra in chivia e va a scaricare tensione dove c'è spazio. Quindi se è interrotta, l'interruttore è a zero, e non succede niente. E così con le antenne io metto tutto a zero, che se no cazzo è un casino, tocca lasciare qualcuno di radio, famiglia in culo. Crighe! Deve andare, a me mi sta cominciando a venire a biocco, Siamo quasi, quasi lì. Ma come dice il microfono è lungo, Lucavo, eh? Arriva dove c'è la testa, no? Cazzo gli è cucato lì. Sì, no, va benissimo. Bello, morbido, flat, bello. Tu già lo sai dove sono, io adesso sono già al caldo, quindi... E ci sto pensando, mi cazzo, se lo sposto, se faccio il piano nell'altra stanza, cazzo, da voi che comodità non verrà giù. Cazzo, c'ho il pro e il contro, cazzo. Ma Sandro, lì c'è un consiglio. Pagati quella roba lì, E ti fa una L leggera. Molto larga, come l'ho fatta io. Ok, leggera. L proprio ti fai. Una L, perché una L? Perché il primo piano che c'hai vicino, al cuscino lì ti metti radio che usi, puoi tagliare tranquillamente. E l'altra invece è quella fronte e finestra, senza grandi scaffali, una L, un piano L, con le zanche a muro. Va bene, dimmi, con le zanche a muro, capito? Se un giorno ci vediamo, te lo faccio vedere io. Con le zanche a muro, una base, una L, un piano e l'altro piano, a fare proprio la L con l'angolo a 45 gradi. Verniciato color legno, colore che vuoi tu, ti vernici prima di piattare, lascia asciugare e poi te li appoggi. Capito? Davanti ti metti baracchino col metto e bim bum bam. Al lato proprio vicino a te al piano vicino a te, quello proprio che forma la L, e ti metti il walker, che sei tranquillo. Intanto è a portata di mano, vicino magari o al V o al Cosimo, dove ti sporgi e lo spegni, si appoggia. E da tutto col baravan, perché col baravan ti prende un sacco di spazio. Sì, sì, sì, no, no, devo modificare, cazzo, devo... E poi adesso poi c'è l'autoparlante esterno, quello l'SP1000, quello è già un altro parasone, quindi lo devo mettere a fianco, cazzo, no, no, no, no. Sì, devo modificare, e vabbè, piano piano, dai, perché poi mi serve un piano d'appoggio, la scrivania, sì, sì. L'unico è un piano, diciamo, con la frontale, poi la L, sì. Io l'avrei fatto così. Intanto il grande te lo porti giù, lo sistemi giù, la radio non la sposti, e stai attento a quella radio, forse spostare, ma va bene. La sistemi giù a Polo Torrice, con la sua colonnina, il suo microfono e il suo alimentatore, finito. Giovanni, io normale, di spazio non hai bisogno di spazio, quel spazio devi avere. Ti metti il baracchino, il microfono a tavolo, quando ti curi che ti cambi il microfono, ti metti quello normale, non te la frutti nuda. Io ti sento lo stesso, non te la frutti nuda, capito? L'inverno, cioè, sotto le coperte ti trattieni, io qua purtroppo, già vedi vita come te. Non mi posso permettere di traiare niente, che non volevo trago la gatria a dritta e a sinistra, a dritta e a sinistra. Io se mi corico per dormire, non per pagare al baracchino, quindi non mi interessa a me quel sistema lì. Perché mia moglie non mi permetterebbe di mettermi, perché se mi pongo lo baracchino in camera, adesso decido bajo. Quindi niente, già piano piano ci ne sono entrati a occhi. L'attrezzo va a fare ginnastica, il video che dà, l'armadio, deve sparire tutto, ma non voglio fare niente, voglio aggiungere tutto, questa è la mia stanza, e non voglio avere rotture in palle. Quando volete chiudere non c'è problema, ci vedete in mezzo, ma si trabacca, io sono ancora in ferie, questa settimana, però se volete chiudere ditemelo, non c'è nessun problema. Vabbè, no, io mi tocca battere come la televisione, no, che così. Poi mi mongo a letto qua, magari mi dice, mi ripeso alle 3 di era, poi non c'è più il sonno. Sì, va bene, dai. Ok. E vabbè, il discorso tuo, caro Cla, è diverso, dai. Io qui è perché c'ho spazio, quindi mi sono organizzato così, più comodo, più coso. Giù a casa, Polo Torrice, no, perché... che lui, il grande, lo metto giù, lo metto nella scrivania dove c'è il computer, insomma, e non ce l'ho in camera da letto, per dire. Ah, è perché mi sento più libero, più a mio agio, è come che sono per i cazzi miei, capito? È tutta un'altra cosa. Poi qui logicamente quando viene mia sorella ci dormono loro, quindi insomma, adesso è una cosa così, volante, cazzo, poi ecco perché ti ho detto che volevo fare in quella stanza là dove abbiamo passato l'antenna, per fare una cosa più definitiva e così via, capito? Tutto lì. Bene, signori, io vi saluto che mi sta bioccando. Domani mattina giornataccia, quindi ce la sentiamo. Oh, belli B. Oh, Luca, ciao Cla, ci sentiamo. Ciao, buonanotte, a domani. Anzi, Claudio. Ehi, ehi, vabbè, sono 11:25, chiudiamo, ci sentiamo domani. Come sapere mio, già c'è il numero, ciao Sa. Tante cosce belle. Aggiorniamoci, settimana non c'è problema. Quando volete venire a trovarmi, la casa la sapete. Mandateci cosa per te, Gianluca, non c'è problema. Se la prendi quello strumento, o sa, quando vuoi, non c'è problema. Ecco, come mettiamo il controllo e ti dico se il commutatore funziona o non funziona. E quando viene lo vediamo assieme. Molto strano. Scala 10, dando la potenza rimane sempre scala 10. Cioè lì è come che non stai attaccando niente, però il segnale aumenta. Quindi i watt stanno uscendo. Quello provo col mio è lo segno 80 watt, quindi quello in scala 10 deve fammi chiedermi la scala di 200, invece non me la chiede, rimane fermo dove era. C'è qualche problema, domani te lo dico. Va bene, va. Allora, un abbraccio a tutti, grazie alla compagnia. Ci aggiorniamo domani, Gianluca, Sandro, Luca, Guerriello e chiunque fosse in ascolto. Se c'è anche Giampaolo, saluti anche a lui. Sentiamo domani, raga. Gianluca, fammi sapere. Voglio... sono curioso, non voglio già dirizzi, capito? E se no, sapete di essere tempo, imbattiamo a Chiaramonti da Carlo, e lo facciamo fare a lui. Lui c'ha il lattore, c'ha tutto. Tutta lui è molto bravo, a me me l'ha sempre fatte. Non c'è nessun problema. Dunque, fammi già bene, e poi ci mettiamo d'accordo. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, cra, a domani. Buonanotte a tutti. Fateci sì. È vero. Praticamente la taranto, ragazzi, non Luca l'altra, ti chiama e non rispondi, sto chiudendo, ciao, buonanotte. State claro. Ho passato qua. Cazzo, ci fa vedere la bacia, te l'hanno il 21. Mattate nell'aria, ciao, buonanotte, ci sentiamo domani, tu. Ciao, Luca, cazzo, in giro è... Sentivo, ho flusciato a Sandro, era un po' fastidio, capito, non vuoi di... Ah, cazzo, me la macchina di un gatto, la ci ha baciato. E adesso già solleviamo l'antenna di Sandro e vedi che no, ti mattaneggia più il debito. Già tregua mio, un'ora, un paio d'ore. Scendo, do la mano io. E se la pongo di che io c'è antenna per vedere, dove si esce. Va bene, dai, non mi trattengo, vado a vedere un po' in TV. Cazzo, ma appena hai battito, io ce l'ho già fatto già lui. O chi doveva giocare oggi, non me lo ricordo. Chi è che fruscia? Pumpurumazzo. Zampa.